Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Ieri lo storico discorso di Obama all'Assemblea ONU, oggi a Pittsburgh il G20 sulla crisi. AIDS, vaccino testato in Thailandia, riduce il rischio del 32% dei casi. Stasera anno zero, Michele Santoro parla a Radio 24, in onda, nonostante tutto. Uccide i suoi bambini, poi si lancia dalla terrazza. È accaduto nel bolognese. Buona giornata dalla redazione da Anarita D'Ambrosio. Lo storico discorso del presidente americano Barack Obama, lo show di Gheddafi, le accuse di Ahmadinejad e la protesta dell'Occidente. Quella di ieri è stata un'assemblea dell'ONU sicuramente significativa. The time has come for the world to move in a new direction. Su tutte le parole di svolta del presidente americano Obama che state sentendo in sottofondo, un discorso che ha cancellato definitivamente l'era Bush e spostato l'asse del mondo su nuovi cardini, la pace, l'ambiente, un'economia meno rapace. Ecco come questo storico intervento di Obama è stato accolto nel mondo arabo. Le reazioni arabe al primo discorso del presidente americano Barack Obama all'ONU sono decisamente agli antipodi. Al positivo giudizio dei quotidiani moderati si oppongono le parole di fuoco usate da quelli antioccidentali. Il foglio panarabo di proprietà saudita Sharq al-Awsat scrive che solo un giorno dopo il suo incontro col presidente palestinese Abu Mazen e il premio israeliano Benjamin Netanyahu, Obama ha voluto ribadire di fronte al mondo intero che proseguire a costruire colonie ebraiche in Cisgiordania è illegittimo. Di tutt'altro tono a Safir, quotidiano libanese vicino agli Hezbollah filo-iraniani, con un fondo intitolato La caduta di Obama, scrive di non credere alle sue orecchie per quel che ha detto il presidente nero dalle origini musulmane e dalla parlata accattivante che aveva conquistato tanti ingenui musulmani. Per Safir, Obama è un ipocrita, un debole ostaggio di Israele al quale non ha saputo neppure imporre il blocco degli insediamenti. Adif Tahali, GR24, il sole 24 ore. È stata dunque un'assemblea storica e ancora una volta, come già in passato, ricca anche di spunti curiosi. Se nel 1960 fece parlare di sé l'allora segretario generale del Partito Comunista Russo, Khrushchev, per la scarpa battuta sul tavolo, ieri ci ha pensato il leader libico Gheddafi a rubare la scena. Un'ora e mezza. Più di lui aveva parlato solo Fidel Castro, che infatti alle Nazioni Unite non è stato più invitato. L'Assemblea Generale dell'ONU 2009 passerà alla storia anche per il sermone del leader libico Gheddafi. Doveva durare 15 minuti, si è allargato a 90. Gheddafi ha concluso poi in un'aula quasi deserta e quei pochi rimasti si erano pure assopiti. Anche fuori dal Palazzo di Vetro il colonnello ha fatto parlare poi di sé. La sua tenda non ha trovato posto a Central Park come lui voleva e anche da Bedford, dove avevano tentato di montarla, ha dovuto sgomberare. E mentre Berlusconi, a sorpresa, ha disertato la cena organizzata da Obama per vedere la figlia Eleonora, diplomata proprio a New York, la coppia Bruni-Sarkozy dava prova di apertura mentale e fair play, incontrando a colazione l'ex moglie di lui, Cecilia, e l'attuale marito. L'incontro a quattro, il primo dal divorzio meno di 2 anni fa, è avvenuto sulla 71esima strada, per l'occasione chiusa al traffico. Valentina Furlanetto, GR24, il sole 24 ore. Ed oggi in una Pittsburgh blindata si apre il summit che chiama i grandi della terra a fare il punto sulla crisi economica. Si tratta del secondo G20 di quest'anno, dopo quello di aprile a Londra. Resta ancora molto da fare però per i grandi, come spiega al microfono di Sergio Nava Franco Bruni, professore di economia monetaria internazionale all'Università Bocconi e vicepresidente dell'ISPI di Milano. Io penso che ci sarà senz'altro qualche risultato e questo risultato sarà conseguenza del lavoro fatto anche in seguito ai meeting precedenti. Però siamo indietro e penso che su diverse cose mancherà sia la preparazione tecnica dei provvedimenti che l'accordo politico. Per esempio non c'è abbastanza preparazione sulle exit strategy, sia delle politiche monetarie, delle banche centrali, che dei bilanci pubblici che vanno assolutamente coordinate internazionalmente, e dove il posto giusto per farlo è il G20. Non siamo molto avanti con il discorso sui capital ratios, non c'è accordo ancora completo sulla regolamentazione dei mercati dei derivati, non ci siamo ancora con la riforma del fondo monetario, che tutti sanno come andrebbe fatta ma nessuno vuole fare il primo passo veramente per farla, non ci siamo ancora con l'architettura degli organi di vigilanza, dove l'Europa ha già fatto i suoi documenti e i suoi progetti, gli Stati Uniti li hanno accennati, ma negli uni e negli altri diciamo sono né abbastanza uniformi né probabilmente abbastanza ancora accettati dalle rispettive comunità. L'Italia insomma ha puntato molto sul cosiddetto Lecce framework, cioè gli standard etici, se ne è parlato al G8 dell'Aquila. Dal suo osservatorio, insomma, questo Lecce framework, questa proposta italiana veramente conta qualcosa però? Ma credo che diciamo corrisponda ad una visione che la comunità internazionale in questo momento ha di cercare in qualche modo di far convergere delle forze per ridurre i paradisi, cioè. Però poi noi andiamo a fare i condoni, capisce? Andiamo a fare lo scudo anche contro il riciclaggio, è chiaro che perdiamo ogni credibilità come leader di etica finanziaria, insomma non si può avere la botte piena e la moglie ubriaca. E proprio pochi minuti fa il ministro dell'economia Tremonti è tornato a parlare di crisi economica, ha detto adesso va molto meglio, l'anno scorso era quasi un incubo. In tempi di nuova influenza, una buona notizia arriva sull'AIDS. Un vaccino messo a punto da ricercatori statunitensi e thailandesi sta dando per la prima volta risultati significativi durante la sperimentazione, dimostrando efficacia in almeno un terzo dei casi. Il parere di Adriano Lazzarin, direttore del Dipartimento di Malattie Infettive del San Raffaele di Milano, al microfono di Nicoletta Carbone. Bisogna sottolineare che è una notizia buona. Erano stati fatti dei passi indietro per il vaccino preventivo nei confronti della trasmissione dell'infezione d'HIV per gli insuccessi che si erano ottenuti nelle sperimentazioni precedenti. Un distinguo va fatto: il vaccino contro l'AIDS ha numerosi candidati, ma è diventato prevalentemente un vaccino terapeutico, cioè che aiuta le terapie che funzionano a controllare l'infezione da virus HIV una volta che si è contratto. Questo preventivo invece previene l'infezione ed è una grande notizia quella di poter contare su un vaccino che possa prevenire l'infezione prima appunto che il soggetto l'abbia contratto e si debba avvalere dei farmaci e dei vaccini terapeutici. Notte di lavoro per Marco Travaglio, che stasera terrà regolarmente l'editoriale per la prima puntata di Anno Zero, come ospite però senza contratto con la RAI. Puntata dedicata proprio all'informazione dal titolo Farabutti. Così al microfono di Paolo Piacenza, Michele Santoro. Ovviamente queste polemiche hanno fortemente condizionato la partenza del programma e quindi il programma parte non nel formato ideale, proprio perché le inchieste non sono state approntate nei tempi giusti, ma le recupereremo facilmente se si creerà un clima migliore. La questione dei contratti, secondo me, deve essere riportata al buon funzionamento dei programmi, al corretto funzionamento dei programmi. A mio parere, se un editore non ama un programma o non ama un singolo autore, può tranquillamente decidere di farne a meno, ovviamente nel rispetto degli impegni già assunti dall'azienda, però lo deve dire con chiarezza, con trasparenza, deve aprire un dialogo non traumatico sia con il pubblico sia con gli autori, e secondo me qualunque cosa si può fare. Quello che non si può fare è cominciare a parlare di un contratto, di un collaboratore, peraltro il principale collaboratore di una trasmissione, cioè il giorno prima o il giorno stesso in cui una trasmissione va in onda. Ieri, durante l'audizione di fronte alla commissione Vigilanza RAI, il direttore generale Masi ha avuto anche parole dure nei confronti della sua trasmissione, ha detto non ci devono essere trasmissioni a priori contro. Io non credo che ci sia un problema interno all'azienda né un problema che riguardi semplicemente i rapporti tra Santoro e i dirigenti della RAI. Le posizioni di Berlusconi esplicitate, l'elenco dei cattivi fatto dal Presidente del Consiglio dimostrano che questo è un problema che travalica i dirigenti della RAI. Non è un caso che tutte le espressioni che vengono adoperate operate in fondo sono quasi tratte dal repertorio del Presidente del Consiglio. Lui dice che non ci possono essere trasmissioni contro, lui dice che non ci possono essere trasmissioni del servizio pubblico che criticano il governo, insomma, quindi la persona con la quale ci dobbiamo misurare non è il nostro direttore generale o il direttore di rete, noi ci misuriamo con il fatto che abbiamo un conflitto di interessi che si abbatte come le due torri sul sistema informativo italiano. E proprio al caso anno zero era dedicato il nostro sondaggio di oggi, sentiamo. L'atmosfera è di un qualcosa di già visto. Riparte anno zero di Michele Santoro, ripartono le polemiche. Il contratto di travaglio, si firma o non si firma, la faziosità presunta o vera di Santoro, domani state certi le polemiche dopo la prima puntata. Solo che quest'anno anche i vertici Rai ci hanno messo del loro. Il direttore di Rai 2, Lio Fredi, definisce anno zero una trasmissione di cui farei a meno. E il direttore generale della Rai, Masi, dice che trasmissioni così danneggiano il servizio pubblico. Ma è vero? No, secondo il 58% dei nostri ascoltatori che hanno risposto al sondaggio di oggi. Anche se su Santoro parte la stoccatina di Clemente Mastella, che nel marzo 2007, quando era ministro, abbandonò polemicamente la puntata e oggi del conduttore dice: poi mio collega, siamo entrati entrambi raccomandati alla Rai, io entrai per contraddicerlo per il Partito Comunista, solo che io democristiano sembrava raccomandato, chi entrava all'epoca il Partito Comunista non era raccomandato ed era bravo, quindi come vedete anche qua c'è una forniziosità che c'è stata. Bianco Nero torna domattina. Per votare, radio24.it. Alessandro Milan, GR24, Il Sole 24 Ore. Ed il consiglio di amministrazione della RAI ha dato il via libera poco fa alla nomina dei vice direttori di Rai 2 e del GR e ha approvato all'unanimità il contratto biennale del programma Che Tempo Che Fa. Via libera anche agli speciali in prima serata della trasmissione di Fabio Fazio su Rai 3. Le 13:18, ben ritrovati, questa è l'edizione delle 13 di GR24, la seconda parte. Nella prima siamo tornati sullo storico discorso pronunciato dal presidente americano Barack Obama ieri all'Assemblea dell'ONU, oggi invece in primo piano c'è a Pittsburgh il G20 sulla crisi economica. Buone notizie arrivano dalla Thailandia sull'AIDS, è stato testato un vaccino che riduce il rischio nel 32% dei casi. Abbiamo parlato anche di TV, delle polemiche su Anno Zero, che stasera va in onda in nostra intervista a Michele Santoro a Radio 24 e nuove polemiche. Stasera vedremo, ci sarà la prima puntata di Anno Zero. Nella seconda parte adesso ci soffermiamo sulla cronaca che purtroppo ci porta nel bolognese per una storia di depressione, un'altra pagina molto dolorosa. Non era seguita da uno psicologo e non aveva manifestato mai segnali che lasciassero trapelare il profondo stato depressivo in cui era caduta dopo la separazione dal marito avvenuta meno di un anno fa. Così ora rimane l'interrogativo tra i familiari della madre di Castenaso, comune alle porte di Bologna, che poco dopo la mezzanotte ha ucciso i suoi due bambini, un maschio di 6 anni e una femmina di 5, per poi suicidarsi gettandosi dal balcone. Per cercare di spiegare le ragioni del suo gesto, la donna ha scritto una lettera trovata dai carabinieri che indagano per ricostruire la precisa dinamica degli avvenimenti. Al momento l'unica ipotesi avanzata e comunque la più plausibile è che la solitudine di questa madre, che lavorava come impiegata in un'azienda del bolognese, si sia trasformata in una depressione maggiore che lei aveva tenuto nascosta anche a quei familiari che le erano più vicini e che non ne avevano capito la profonda sofferenza. Deborah Dirani, GR24, Il Sole 24 Ore, Bologna. Parliamo della Lega adesso, dopo le tensioni con Fini sul tema immigrazione, gli attacchi al Vaticano, gli affondi sui dialetti e l'inno nazionale. Siamo andati in alcuni feudi del Carroccio per sentire come erano state vissute. Questa è la prima puntata del nostro reportage. Poveretti, non hanno né da mangiare né da dormire, fanno pena, però la pena non risolve il problema. Anche la Chiesa dovrà adeguarsi ai tempi. Il verbo di Gesù nelle mani, quello leghista nel segreto dell'urna. E non sempre Don Camillo e il Senatur convivono bene. All'uscita della chiesa di San Faustino a Brescia, dove le insegne di kebab e oggetti pakistani sono più frequenti degli studi legali, la signora Maria è combattuta tra l'adesione ai precetti religiosi e gli attacchi del Carroccio al Vaticano. In tema di immigrazione, così, trova un suo personale compromesso. È questione di permissivismo, troppo permissivismo, cioè dipende cosa uno intende di raccoglienza. Nei fortini lombardi del Carroccio, molti dei quali dalla solida tradizione religione cattolica, in tanti hanno optato per una sorta di religione fai da te, con vari distinguo tra la Santa Sede e i singoli parroci, i principi generali e la realtà concreta. La Chiesa si deve adattare, insomma, adattare ai tempi nostri. È molto più sensato cercare di aiutare le persone nei propri paesi d'origine. C'è una forma di integrazione, se non voglio rompere le palle, se no logicamente subentra la parte di razzismo che in ognuno di noi c'è. Possibilità che ti possa piacere una ragazza straniera? Asiatica magari. Il Vaticano ovviamente è la pace universale, accettiamo tutti. È chiaro che ci deve essere un limite, quando sono troppi sono troppi. Pensa che questo tipo di battaglie potrebbero portare qualcuno vicino al mondo della Chiesa a non votare più per la Lega? Ah sì, questo sì. L'apertura al voto degli immigrati da parte dell'alleato Fini viene così vissuta come un tradimento, sia pur non inatteso. E per rimettere i puntini sulle i, a Brescia la Lega ha organizzato dei gazebo. La gente è d'accordo con noi, non vede di buon occhio questo passo indietro. Io personalmente penso che quando la Chiesa parla di questi temi lo fa secondo me dal palazzo e non a livello terra terra tra la gente. Raffaella Calandra, GR24, Il Sole 24 Ore, Brescia. Abbiamo parlato di discriminazione, c'è una notizia che arriva da Taranto, discriminazione in questo caso nei confronti delle donne. La sezione di Lecce del Tar Puglia ha accolto il ricorso presentato dal Comitato Cittadino Taranto Futura, che ha chiesto l'annullamento delle nomine degli assessori della provincia di Taranto perché tutti maschi. Dunque una buona notizia, entro 30 giorni hanno disposto i giudici, deve essere assicurata la presenza di entrambi i sessi nell'esecutivo. La giunta provinciale retta da Gianni Florido del centro-sinistra. Con un minuto di silenzio il plenum del CSM ha reso omaggio stamattina al procuratore capo di Asti, Maurizio Laudi, morto nella notte a seguito di un infarto. Giudice antiterrorismo con il pallino per il calcio, così veniva sempre definito Maurizio Laudi, stroncato da un infarto nella sua casa di Torino. Procuratore capo di Asti, Laudi, 61 anni, attualmente era anche segretario di magistratura indipendente, l'ala moderata dell'ANM. In magistratura dal 74, un anno e mezzo fa, aveva lasciato la procura di Torino dopo moltissimi anni di servizio, prima come sostituto, poi come aggiunto. Durante gli anni di piombo, insieme all'amico Giancarlo Caselli, ha legato il suo nome alle più importanti inchieste su terrorismo ed eversione. A capo della direzione distrettuale antimafia era stato fra i primi negli anni 90 a mettere sotto inchiesta la realtà anarco-insurrezionalista. Ecco come inquadrava il movimento ai nostri microfoni qualche anno fa. Uno schema organizzativo molto diverso, per intenderci, da quello tipico delle Brigate Rosse, che è fortemente centralizzato, fortemente strutturato. Per usare un apparente bisticcio di parole, è una organizzazione, diciamo, apparentemente disorganizzata. La notizia della morte di Maurizio Laudi ha suscitato grande commozione negli ambienti giudiziari e anche nel mondo del calcio, dove era noto per l'incarico di giudice sportivo e per aver collaborato alle norme antiviolenza, alla disciplina della prova TV e alla revisione del codice di giustizia sportiva. Maria Luisa Pezzali, GR24, Il Sole 24 Ore. E noi veniamo proprio alla pagina sportiva, al calcio, con una notizia di poco fa. Andrea Della Valle non è più il presidente della Fiorentina. Ad annunciarlo Giovanni Montagna, avvocato e consigliere della società Viola, al termine del consiglio di amministrazione straordinario che si è svolto questa mattina a Firenze. E intanto stasera posticipo di lusso per la Serie A. A Marassi si affrontano Genoa e Juventus. In caso di vittoria, i bianconeri sarebbero capolista solitari, superando l'Inter che ieri ha battuto il Napoli. Ma il tecnico bianconero Ferrara teme i rossoblù. Sappiamo che è una squadra che sta bene fisicamente, che conosce a memoria gli schemi di Gasperini e che li attua anche facendo, secondo me, vedere un ottimo calcio, un calcio tecnico ma anche fatto di grandissima intensità. Per la Formula 1 da domani il Gran Premio di Singapore, mentre la Ferrari ha le prese con la Rebus Piloti. Quello che è sicuro è che avremo una guida brasiliana che merita di avere una chance l'anno prossimo, perché grazie a Dio sta bene e andrà. Sul resto stiamo riflettendo sulla scelta migliore. Sfoglia la margherita il presidente della Ferrari Montezemolo, ma intanto meglio cominciare a far chiarezza. Nel 2010 alla guida della rossa ci sarà di sicuro Massa, in ripresa dopo l'incidente del GP d'Ungheria. Raikkonen, tornato brillante dopo mesi di anonimato, resta formalmente in corsa per la riconferma, ma l'accordo già firmato con Alonso e le pressioni del nuovo sponsor iberico della Ferrari danno già per scontato che l'anno prossimo sarà l'iberico l'altro pilota di Maranello, anche perché Alonso non è stato toccato dal pasticciaccio brutto del caso Renault-Piquet. Montezemolo ha espresso solidarietà al radiato Briatore, incastrato da una sentenza contro Pilati Scuri. Grandi manovre sono in atto dietro le quinte per trovare un compromesso, mentre il Circus sbarca proprio a Singapore, la pista del grande inganno di un anno fa. Dario Ricci, GR24, Il Sole 24 Ore. In chiusura torniamo a parlare di televisione. Era il 24 settembre 1959. Veniva trasmessa una gara a Canora per i bambini, che negli anni sarebbe diventata sempre più famosa. Ricorrono oggi esattamente 50 anni dal primo Zecchino d'Oro. Non ancora da Bologna, ma dal Teatro dell'Arte di Milano, andò in onda un concorso di canzoni nuove per bambini, cantate da bambini e giudicate da bambini, presentate in televisione dalla RAI. Cino Tortorella suggerì di scrivere un varietà ispirato a Pinocchio. Per questo la canzone vincitrice avrebbe avuto in premio uno Zecchino d'Oro, staccato dall'albero di zecchini spuntato dal campo dei miracoli. La prima edizione vide in gara 10 canzoni, cantate da altrettanti bambini. La più famosa, Lettera a Pinocchio, verrà portata poi al successo da Johnny Dorelli. Ma com'è cambiato lo Zecchino d'Oro in questi anni? Lo chiediamo al nostro Alberto Pellai, esperto di bambini, ma soprattutto autore di canzoni per lo Zecchino d'Oro. Credo che negli ultimi 20 anni lo Zecchino d'Oro abbia dato ai bambini d'Italia la possibilità di aprire uno sguardo sul mondo. È diventato realmente interculturale, multiculturale, aprendo il suo spazio a canzoni che provenivano da tutto il mondo, bambine di altre razze e di altre culture. Inoltre si è molto aggiornato non solo nei ritmi delle canzoni, ma anche nei contenuti delle canzoni. Io ne sono un esempio, visto che ho scritto una canzone sul bullismo che 2 anni fa ha avuto uno spazio tra le 7 italiane dello Zecchino d'Oro e ha fatto molto discutere, sia perché presentata in una manifestazione di canzoni per bambini, sia perché dallo Zecchino è uscita, è entrata nelle scuole ed è servita per fare prevenzione di questo fenomeno. Marta Cagnola, GR24, Il Sole 24 Ore. È tutto per questa edizione, vi lascio a Buongiorno America, il GR torna alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore, direttore Gianfranco Fabi.